Consisteva grosso modo in ciò che sappiamo, compresi i fatti riguardanti Will Ladislaw, con l'aggiunta di un po' di colore locale e di dettagli. Era ciò di cui Balstrow aveva temuto la rivelazione, che sperava di aver sepolto per sempre col cadavere di Raffles. Era quell'ossessionante fantasma della sua vita giovanile, da cui, mentre passava a cavallo davanti all'arcata del Green Dragon, sperava che la provvidenza lo avesse liberato. Sì, la provvidenza. Non aveva ancora confessato a se stesso di aver fatto qualcosa per affrettare quel risultato. Aveva accettato ciò che sembrava gli fosse stato offerto. Era impossibile dimostrare che avesse compiuto alcunché per affrettare la dipartita dell'anima di quell'uomo. Ma questo pettegolezzo su Balstrow si diffuse per Middlemarch come l'odore di un incendio. Mr. Frank Hawley andò a fondo dalle informazioni ricevute, inviando a Stonecourt un impiegato di cui si poteva fidare, col pretesto di raccogliere informazioni sul fieno, ma in realtà per raccogliere tutto quel che si poteva sapere su Raffles e la sua malattia da Mrs. Sable. In tal modo venne a conoscenza del fatto che Mr. Garth aveva trasportato l'uomo a Stonecourt nel suo calesse e Mr. Hawley di conseguenza colse l'occasione di andare a trovare Caleb, passando dal suo ufficio, per chiedergli se avesse tempo di assumersi un arbitrato, se gli fosse stato richiesto, e quindi chiedendogli per caso di Raffles. Caleb non si lasciò sfuggire nessuna parola pregiudizievole per Balstrow, tranne il fatto che fu costretto ad ammettere di aver rinunciato a lavorare per lui la settimana prima. Mister Hawley trasse le sue deduzioni e, sentendosi convinto che Raffles avesse raccontato la sua storia a Garth e che di conseguenza Garth avesse rinunciato a curarsi degli affari di Balstrow, alcune ore dopo lo disse a Mister Toller. L'affermazione passò di bocca in bocca finché perse completamente il carattere di un'ipotesi e fu presa come un'informazione giunta direttamente da Garth, cosicché persino uno storico diligente sarebbe potuto giungere alla conclusione che Caleb era il principale propalatore delle malefatte di Balstrow. Mister Hawley non tardò a rendersi conto che la legge non aveva alcun appiglio né nelle rivelazioni rese da Raffles né nelle circostanze della sua morte. Lui stesso si era recato al villaggio di Lowick per poter controllare il registro e parlare di tutta la faccenda a Mr. Fairbrother, il quale non fu più sorpreso dell'avvocato che fosse venuto alla luce un segreto infamante su Balstrow, sebbene in cuor suo fosse stato sempre abbastanza giusto da impedire alla propria antipatia di giungere a delle conclusioni. Ma mentre stava discorrendo, nella mente di Mr. Fairbrother si fece silenziosamente strada la consapevolezza di un'altra combinazione, che anticipò ciò di cui ben presto a Middlemarch si sarebbe parlato come di un inevitabile 2 più 2 fa 4. Assieme ai motivi per cui Balstrow aveva timore di Raffles, come un lampo si affacciò al pensiero che quel timore fosse in qualche modo in rapporto con la sua munificenza verso il proprio medico. E sebbene Mr. Fairbrother si opponesse al pensiero che Lydgate l'avesse in qualche modo accettata come un dono per corromperlo, egli ebbe il presentimento che questa complicazione avrebbe potuto avere un effetto dannoso per la reputazione di Lydgate. Si accertò che Mr. Hawley al momento non sapesse nulla della sua improvvisa liberazione dai debiti e lui stesso pose ogni cura nell'evitare ogni accenno in merito a questo argomento. Bene, disse con un profondo sospiro, deciso a porre fine all'interminabile discussione su ciò che poteva essere accaduto, sebbene nulla si potesse legalmente dimostrare. È una strana storia. Così il nostro brillante Ladislav ha una strana genealogia. Una ragazza coraggiosa e un patriota polacco amante della musica rappresentano un ceppo abbastanza probabile da cui egli potesse provenire, ma non avrei mai sospettato un innesto del mercante di pegni ebreo. Comunque non si può sapere in precedenza che miscuglio salterà fuori. Certi generi di brutture servono a chiarire le cose. È proprio quello che mi sarei aspettato, disse Mister Hawley montando a cavallo. Un maledetto sangue straniero, ebreo, corso o zingaro. So che è una delle vostre pecore nere, Ole, ma è proprio un tipo disinteressato e spontaneo, disse Mr. Fairbrother sorridendo. Già, questa è la vostra inclinazione, Whig, ribatté Mr. Ole, che aveva preso l'abitudine di dire con aria di scusa che Fairbrother era una persona così maledettamente simpatica e di buon cuore che lo si sarebbe potuto scambiare per un tori. Mister Hawley tornò a casa senza pensare all'assistenza prestata da Lydgate a Raffles, tranne che come una prova contro Balstrow. Ma la notizia che Lydgate, tutt'a un tratto, era riuscito non solo ad evitare il sequestro dei mobili in casa, ma a pagare tutti i debiti contratti a Middlemarch, si diffuse rapidamente, attirando congetture e commenti che conferivano ad essa nuova consistenza e forza. E ben presto giunse alle orecchie di altre persone oltre a Mister Ole, le quali videro subito un rapporto significativo fra questa improvvisa disponibilità di denaro e il desiderio di Balstrò di soffocare lo scandalo di Raffles. Che il denaro proveniva da Balstrò lo si sarebbe indovinato infallibilmente, anche se di ciò non si fosse stata una prova lampante. Infatti, in precedenza era entrato a far parte dei pettegolezzi sulla situazione di Lydgate, che né il suocero né la famiglia di lui lo avrebbero aiutato in alcun modo. E una prova diretta fu fornita non solo da un impiegato della banca, ma dalla stessa innocente Mrs. Balstrow, la quale parlò del prestito a Mrs. Plymdale, la quale ne parlò alla nuora, una delle famiglie Toller, la quale ne parlò ad Estra e a Manca. La faccenda fu giudicata a tal punto di pubblico interesse e così importante che ci vollero dei pranzi per alimentarla, e proprio allora molti inviti a pranzo furono offerti e accettati in forma di questo scandalo riguardante Balstrò e Lydgate. Mogli, vedove e zitelle presero il loro lavoro e si recarono fuori a prendere il tè più spesso del consueto. Ed ogni festeggiamento pubblico, dal Green Dragon al Dollops, acquistò un interesse che nemmeno la questione sulla possibilità che i Lord respingessero il progetto di riforma elettorale avrebbe potuto suscitare. In effetti, quasi nessuno dubitava che al fondo della prodigalità di Balstrow verso Lydgate ci fosse un motivo scandaloso di qualche genere. Infatti, Mister Ole in primo luogo invitò un gruppo scelto, comprendente i due medici, Mister Toller e Mister Vrench, con l'espresso motivo di tenere una discussione rigorosa riguardo alle probabilità della malattia di Raffles, mettendoli a conoscenza di tutti i particolari che erano stati raccolti da Mrs. Abel in rapporto al certificato rilasciato da Lydgate, che diceva che la morte era da attribuire a delirium tremens. E i medici, che seguivano tutti indisturbati la vecchia strada riguardo a questa malattia, dichiararono di non riuscire a vedere in questi particolari nulla che si potesse trasformare in un motivo fondato di sospetto. Ma i motivi morali di sospetto restavano, i forti motivi che Balstrò chiaramente aveva per desiderare di liberarsi di Raffles e il fatto che in quel momento critico avesse concesso a Lydgate l'aiuto di cui da qualche tempo sapeva che aveva necessità. Inoltre l'inclinazione a credere che Balstrow fosse uomo di pochi scrupoli e l'assenza di ogni difficoltà a credere che Lydgate si potesse facilmente corrompere come altri uomini boriosi quando si sono trovati ad aver bisogno di denaro. Anche se il denaro gli era stato dato semplicemente per indurla a tenere la bocca chiusa sullo scandalo della vita precedente di Balstrow, il fatto gettava una luce odiosa su Lydgate, che da tempo veniva schernito per aver cercato di raggiungere una posizione di prestigio rendendosi utile al banchiere, e screditando i colleghi più anziani. Per questo motivo, a dispetto delle conclusioni negative riguardo a qualsiasi coinvolgimento diretto nella morte avvenuta a Stone Court, il gruppo scelto di Mister Hawley si sciolse con la sensazione che la faccenda aveva un brutto aspetto. Ma questa vaga convinzione di una colpa indefinita che bastava a provocare continuamente molte scosse di capo e mordenti allusioni, persino fra solidi professionisti anziani, possedeva per l'opinione pubblica tutta la forza superiore che il mistero ha sulla realtà. Ciascuno preferiva congetturare come poteva essere la cosa invece di limitarsi a conoscerla. Infatti, le congetture ben presto divennero più credibili del sapere e lasciavano più liberamente posta l'incompatibile. Persino lo scandalo più definito riguardante i trascorsi di Balstrow in alcune menti veniva versato nella gran massa del mistero, come tanto metallo vivo da venir riversato nel dialogo e da assumere le forme fantastiche che voleva il cielo. Questo era il tono delle opinioni sottoscritte soprattutto da Mrs. Dollop, la vivace padrona del Tankard in Slaughter Lane, la quale dovette spesso opporre resistenza al superficiale pragmatismo dei clienti disposti a pensare che le loro notizie provenienti dal mondo esterno avevano la stessa forza di quelle che le saltavano in mente. In che modo le fossero state recate lei non lo sapeva, ma erano lì davanti a lei come se fossero state segnate col gesso sul caminetto. Come direbbe Balstrow, nel suo intimo era così nero che se i capelli del suo capo conoscessero i pensieri del suo cuore, se li strapperebbe dalle radici. È strano, disse Mr. Limp, un calzolaio riflessivo dalla vista debole e dalla voce stridula. Ma sì, ho letto su The Trumpet che così ha detto il duca di Wellington quando ha cambiato gabbana ed è passato ai cattolici. Molto probabile, disse Mrs. Dollop, Se l'ha detto un mascalzone, ha una ragione di più perché dovrebbe dirlo un altro. Ma ipocrita come state, facendo cadere le cose così dall'alto che in tutto il paese non c'era un parroco abbastanza buono per lui, è stato obbligato a mettere a parte del suo segreto il vecchio Harry. E il vecchio Harry è stato troppo per lui. Già, già. Quello è un complice che non si può mandare fuori del paese, disse Mr. Crabbe, il vetraio che raccoglieva molte notizie e brancolava incerto fra di esse. Ma da quello che mi pare di capire, ci sono di quelli che dicono che Balstrow stava per scappare per paura di essere scoperto. Sarà cacciato via, che lo voglia o no, disse Mr. Dilly, il barbiere, che era appena entrato. Ho fatto la barba a Fletcher, l'impiegato di Ole, questa mattina. Ha un dito malato e lui dice che sono tutti dell'idea di sbarazzarsi di Balstrow. Mister Thesiger si è voltato contro e vuole che se ne vada dalla parrocchia. E ci sono dei signori in questa città che dicono che preferirebbero cenare con un galeotto. E lo preferirei moltissimo, dice Fletcher, perché cosa c'è di più stomachevole che di un uomo che rovina la compagnia con la sua religione, che parla come se i 10 comandamenti non gli bastassero e per tutto il tempo è peggio della metà degli uomini ai lavori forzati. Fletcher si è detto. Però sarà un brutto affare per la città se i soldi di Balstrow se ne andranno, disse Mr. Limp con voce tremolante. C'è gente migliore che spende i propri soldi peggio, disse con voce ferma un tintore, le cui mani rosse apparivano in contrasto con il viso benevolo. Ma i soldi non li terrà lui, da quello che mi pare di capire, disse il vetraio. Non dicono forse che c'è qualcuno che può portarglieli via? Da quello che riesco a capire, potrebbero privarlo di ogni centesimo se la cosa andasse a finire in tribunale. Niente del genere, disse il barbiere che si sentiva un po' superiore agli altri da Dollops, ma non per questo gli andavano meno a genio. Fletcher dice che non è così. Lui dice che potrebbero dimostrare e tornare a dimostrare di chi era figlio questo giovane Ladislav e non ricaverebbero altro che se avessero dimostrato che io sono uscito dalle paludi. Non potrebbe toccare un centesimo. Statemi ad ascoltare adesso, disse Mrs. Dollop in tono indignato. Ringrazio il Signore per essersi preso i miei figli con sé, se tutto quello che la legge può fare per gli orfani sta qui. Allora, secondo questo ragionamento, non importa che siano tuo padre o tua madre, ma ad ascoltare quello che dice un avvocato senza chiedere a un altro, mi meraviglio di una persona della vostra intelligenza, Mr. Dill. È ben risaputo che una medaglia ha sempre due facce, se non di più, altrimenti chi andrebbe a fare causa? Vorrei sapere. È una vergogna, con tutte le leggi che ci sono in alto e in basso, se fosse inutile dimostrare di chi si è figlio. Fletcher può dire così se gli pare, ma io dico, non mi rompete le scatole con questo Fletcher. Mr. Dill ostentò una risata complimentosa verso Mrs. Dollop, come se fosse una donna che poteva tenere più che testa agli avvocati, disposta a lasciarsi punzecchiare abbondantemente da una birraia che aveva un risentimento inveterato nei suoi confronti. Se vanno in tribunale ed è tutto vero quello che la gente dice, c'è da aspettarsi ben più che del denaro, disse il vetraio. C'è questo individuo che è morto e sepolto, da quello che mi pare di capire. Lui avrebbe visto giorni in cui era un gentiluomo molto più fine di Balstrow. Un gentiluomo più fine, glielo garantisco, disse Mrs. Dollop. È un uomo molto più avvenente, da quello che sento. Come ho detto quando Mr. Baldwin, l'esattore delle tasse, è entrato ed è rimasto in piedi dove state seduto voi, e ha detto: Balstrow ha guadagnato tutti i soldi che ha portato in questa città, rubando e truffando. E io ho detto: non mi dite niente di nuovo, Mr. Baldwin. Mi ha fatto venire la pelle d'oca a guardarlo da quando è venuto in Slaughter Lane e voleva comprare la casa che ho sopra. La gente non è del colore della farina e non vi guarda come se volesse vendervi dentro il midollo per niente. Ecco cosa ho detto e Mr. Baldwin ne è testimone. E anche in tribunale, disse Mr. Crabbe. Perché da quello che mi pare di capire, questo Raffles, come lo chiamavano, era un uomo vigoroso, dal colorito fresco, come mi farebbe piacere vedere, e un grande amicone, benché ormai sia steso morto nel cimitero di Lowick. E da quello che ci capisco, c'è chi ne sa di più di quello che dovrebbe sapere sul modo in cui è arrivato. Vi credo, disse Mrs. Dollop, con una punta di disprezzo verso l'evidente ottusità di Mr. Crabbe. Quando uno è stato attirato in una casa solitaria e ci sono persone che possono pagare ospedali e infermiere per metà della zona, che preferiscono restare alzati loro notte e giorno e nessuno si avvicina tranne un dottore che si sa che non si ferma davanti a niente, uno che prima era così povero da stare a malapena in piedi e dopo è così gonfio di soldi da poter saldare Mr. Biles, il macellaio che gli fa credito per i migliori prezzi di carne dall'ultimo San Michele che è passato un anno. Non voglio che nessuno mi venga a dire che non è successo altro che quello per cui nel breviario ha contemplato un ufficio. Non voglio restarmene lì a sbattere le palpebre, chiudere un occhio e pensare. Mrs. Dollop si guardò attorno con l'aria di una birraia abituata a dominare i propri compagni. Ci fu un coro di approvazione da parte dei più coraggiosi, ma Mr. Limp, dopo aver bevuto un sorso, unì le sue mani piatte e le compresse fortemente fra le ginocchia, guardandole con aria annebbiata di contemplazione, come se la forza bruciante del discorso di Mrs. Dollop gli avesse completamente disseccato e annullato le sue facoltà mentali, finché non riuscì a farle rinvenire con un'altra bevuta. Che non dovrebbero diseppellire l'uomo e chiamare il medico legale, disse il tintore. È stato fatto e rifatto un sacco di volte. Se è stato assassinato, potrebbero scoprirlo. Chi? Loro? Mr. Jonas? Disse Mrs. Dollop con energia. So quello che sono i dottori. Sono troppo astuti per venire scoperti. È questo dottor Lydgate che vuole tagliare tutti prima che abbiano finito di respirare. È più che chiaro a cosa gli serviva guardare dentro alla gente rispettabile. Conosce medicine, potete star certi che non potete vedere o odorare, né prima di ingoiarle né dopo. Ma sì, ho visto di persona delle gocce ordinate dal dottor Gambì, che è il dottore del nostro circolo, è una brava persona e ha fatto venire al mondo più bambini vivi lui e di qualsiasi altro a Middlemarch. Dico che ho visto di persona delle gocce che non faceva nessuna differenza che fossero nel bicchiere o fuori, eppure il giorno dopo hanno fatto venire il mal di pancia. Così lascio giudicare al vostro buon senso. Non ditemelo, tutto quello che dico è che è una fortuna che non hanno accettato questo dottor Lydgate nel nostro club. Ci sono molti figli di mamma che lo avrebbero rimpianto. Gli argomenti principali di questa discussione da Dollops erano diventati il tema comune nelle conversazioni fra tutte le classi della città. Erano stati portati fino alla canonica di Lowick da una parte e fino a Tipton Grange dall'altra. Erano giunti pienamente alle orecchie della famiglia Vincey ed erano stati discussi da tutti gli amici di Mrs. Balstrow con triste riferimento alla povera Harriet, prima che Lydgate scoprisse con chiarezza perché la gente lo guardava con occhiate strane e prima che Balstrow stesso avesse sospetto che i suoi segreti erano stati scoperti. Non era stato abituato a rapporti molto cordiali con i suoi concittadini e quindi non riuscì a captare l'assenza dei segni di cordialità. Per di più aveva fatto viaggi d'affari di vario genere dal momento che ora aveva deciso che non era necessario lasciare Middlemarch e di conseguenza si sentiva in grado di prendere delle decisioni su delle faccende che in precedenza aveva lasciato in sospeso. Fra un mese o due faremo un viaggio a Cheltenham, disse alla moglie. Si può godere di grandi vantaggi spirituali in quella città, assieme all'aria e alle acque, e se settimane trascorse là ci rianimeranno enormemente. Credeva realmente nei vantaggi spirituali e voleva sul serio che la sua vita d'ora in avanti fosse tanto più pia a causa di quegli ultimi peccati che si immaginava come ipotetici e nel dubbio invocava il perdono. Se ho trasgredito in questo la tua volontà. Quanto all'ospedale, evitò di parlarne ulteriormente a Lydgate, temendo di manifestare un mutamento di progetti troppo improvviso, immediatamente dopo la morte di Raffles. In fondo all'anima, credeva che Lydgate sospettasse che si era intenzionalmente disobbedito ai suoi ordini, e con questo sospetto doveva anche sospettare un movente. Ma non gli era stato rivelato nulla sulla storia di Raffles, e Balstrow badava con ansia a non fare nulla che desse forza a quei sospetti indefiniti. Quanto a una qualsiasi certezza che un particolare sistema di trattamento salvasse la vita o uccidesse, Lydgate stesso si batteva di continuo contro un simile dogmatismo. Egli non aveva alcun diritto di parlare, aveva ogni motivo per tacere. Perciò Balstrow si sentiva protetto dalla provvidenza. L'unico incidente che lo aveva fatto trasalire notevolmente era stato un incontro casuale con Caleb Garth, il quale tuttavia si era levato il cappello con mite gravità. Nel frattempo, una decisa avversione stava crescendo fra i cittadini contro di lui. Bisognava tenere una riunione in municipio su una questione igienica che aveva assunto importanza pressante per il verificarsi di un caso di colera in città. Da quando era stato approvato in tutta fretta un decreto parlamentare che autorizzava imposte per misure sanitarie, era stato nominato un comitato che doveva sovrintendere a tali misure a Middlemarch e sia i Whig che i Tory avevano contribuito a fare una grande quantità di pulizie e di preparativi. Ora, il problema era essere un appezzamento di terreno al di fuori della città dovesse essere acquisito come luogo di sepoltura per mezzo di imposte o ricorrendo a sottoscrizioni private. La riunione doveva essere pubblica e ci si aspettava che intervenisse ogni cittadino di una certa importanza. Mister Bastrow era membro del comitato e proprio prima di mezzogiorno lasciò la banca con l'intenzione di sostenere il progetto di una sottoscrizione privata. Nell'incertezza sui propri piani si era mantenuto in disparte per un certo tempo e sentiva che quella mattina avrebbe dovuto riprendere la sua antica posizione di uomo attivo ed influente nelle faccende pubbliche della città, dove si aspettava di terminare i propri giorni. Fra le varie persone che andavano nella stessa direzione, vide Lydgate. Si unirono, parlarono dell'argomento della riunione e vi entrarono insieme. Sembrava che tutte le persone di rilievo fossero arrivate prima di loro. Ma erano rimasti ancora degli spazi liberi vicino a un capo del grande tavolo centrale e si diressero verso di esso. Mr. Fairbrother sedeva dalla parte opposta, non lontano dai Mr. Hawley. Tutti i medici erano là. Mr. Thesiger occupava la poltrona di presidenza e Mr. Brooke di Tipton era alla sua destra. Lydgate notò uno strano scambio di occhiate quando lui e Bastrow si misero a sedere. Dopo che la seduta fu aperta a tutti gli effetti dal presidente, il quale sottolineò i vantaggi di acquisire con una sottoscrizione un appezzamento di terreno abbastanza ampio da destinarsi in ultima analisi al cimitero generale, Mr. Bastrow, alla cui voce piuttosto stridula ma sommessa e fluida la cittadinanza era abituata a riunioni di questo genere, si alzò e chiese il permesso di esprimere la propria opinione. Lydgate notò nuovamente quello scambio di sguardi prima che Mr. Hawley balzasse in piedi e dicesse con la sua voce ferma e risuonante: Signor Presidente, chiedo che prima che qualcuno esprima la propria opinione su questo punto, mi si permetta di parlare su una questione di pubblico interesse, che è considerata pregiudiziale non solo da me, ma da molti gentiluomini qui presenti. L'eloquio di Mr. Hawley, anche quando il pubblico decoro soffocava il suo terribile linguaggio, era formidabile per la concisione e la padronanza di sé. Mr. Thesiger aderì alla richiesta, Mr. Balstro si sedette e Mr. Hawley proseguì. In quello che ho da dire, signor Presidente, non parlo semplicemente a nome mio, parlo con l'appoggio e l'espressa richiesta di non meno di 8 miei concittadini, i quali ci stanno proprio attorno. È nostro sentimento comune che Mr. Balstrow sia invitato, e io ora lo invito, a rassegnare le cariche pubbliche che gli detiene non solo come contribuente, ma in quanto gentiluomo fra gentiluomini. Ci sono pratiche e ci sono atti che per particolari circostanze la legge non può punire, sebbene possono essere peggiori di molte cose legalmente perseguibili. Gli uomini onesti e gentiluomini, se non desiderano la compagnia di persone che perpetrano tali azioni, hanno il dovere di difendersi come meglio possono, e questo è ciò che io e gli amici, che posso chiamare i miei clienti in questa faccenda, siamo decisi a fare. Non affermo che Mr. Balstrow si sia macchiato di atti disonorevoli, ma io continuo a confutare e a smentire la scandalosa dichiarazione fatta contro di lui da un uomo ora morto e che è morto nella sua casa, e la dichiarazione che per molti anni si è dato a pratiche nefande e che si è guadagnato la propria fortuna con un agire disonesto, oppure a ritirarsi da carica alle quali avrebbe potuto avere accesso solo in quanto gentiluomo fra gentiluomini. Nella stanza tutti gli occhi erano rivolti su Mr. Balstrow, il quale, da quando si era per la prima volta fatta menzione del suo nome, stava attraversando una crisi interiore quasi troppo violenta perché la sua delicata struttura la potesse sopportare. Lydgate, il quale a sua volta sentiva una scossa di fronte alla terribile interpretazione, pratica di qualche debole presagio, avvertì tuttavia che il proprio moto di odio risentito era frenato da quell'istinto tipico del guaritore, il quale per prima cosa pensa a recare liberazione o sollievo a chi soffre, allorché guardò al volto livido di Balstrow, squallido e contratto. La rapida visione che la sua vita infine era un fallimento, che egli era un uomo disonorato e doveva tremare davanti allo sguardo di coloro verso i quali egli aveva abitualmente assunto l'atteggiamento di un censore, che Dio Lo aveva ripudiato di fronte agli uomini e lo aveva lasciato privo di riparo, dal disprezzo trionfante di coloro che erano lieti che il loro odio fosse giustificato. Il senso di estrema futilità di quell'equivocare con la propria coscienza, manipolando la vita del suo complice, un equivocare che ora si rivoltava velenosamente contro di lui quella zanna matura di una menzogna venuta alla luce. Tutto questo lo attraversò come il tormentoso terrore che non uccide e lascia le orecchie ancora aperte al ritorno dell'ondata di esecrazione. La sensazione improvvisa di venire smascherato dopo il rinnovellato senso di sicurezza colpì non il rozzo organismo di un criminale, ma i nervi sensibilissimi di un uomo la cui vita più intensa stava in quella padronanza e in quel predominio che le condizioni della sua esistenza gli avevano forgiato. Ma in quella vita intensa si trovava anche la forza della reazione. Tutta la sua infermità fisica fu percorsa da una tenace spinta a un'ambiziosa volontà di autoconservazione che continuamente si era levata come una fiamma, disperdendo ogni timore dottrinale e che, quando egli se ne stava seduto, oggetto di compassione per le persone pietose, cominciava ad agitarsi e brillare sotto il cinereo pallore. Prima che le sue ultime parole fossero uscite dalla bocca di Mr. Hawley, Bastrow sentì che doveva rispondere e che la sua risposta doveva essere un rimbecco. Non osava alzarsi e dire: «Non sono colpevole, tutta la storia è una montatura». Anche se avesse osato, nell'attuale acuta impressione di essere smascherato, gli sarebbe sembrato inutile come tirare uno straccio fragile che si sarebbe lacerato ad ogni piccolo strattone per coprire la propria nudità. Per alcuni momenti ci fu un silenzio totale, mentre tutti gli uomini presenti nella sala guardavano Balstrow. Questi sedeva perfettamente immobile, la schiena appoggiata con forza allo schienale della sedia, non osava alzarsi e quando cominciò a parlare premette le mani su entrambi i lati della sedia, ma la sua voce era perfettamente udibile, anche se più rauca del solito. Le parole erano pronunciate distintamente, sebbene si fermasse ad ogni frase come se gli mancasse il respiro. Voltosi prima verso Mr. Thesiger e poi guardando Mr. Hawley, disse: «Io protesto davanti a voi, signore, che siete un ministro della Chiesa, contro la sanzione nei miei confronti di procedimenti che sono dettati da un odio virulento. Coloro che mi sono ostili gioiscono a credere a qualsiasi infamia pronunciata contro di me da una lingua avventata. E le loro coscienze si fanno severe contro di me. Dicono che la malalingua di cui io devo essere la vittima mi accusa di malefatte». A questo punto la voce di Balstrow divenne più forte e assunse un accento più tagliente, finché non parve un grido a bassa voce. «Chi sarà il mio accusatore? Non uomini che hanno condotto una vita poco cristiana, anzi scandalosa, non uomini che a loro volta si servono di strumenti spregevoli per realizzare i loro scopi, la cui professione è un intrico di ciarlataneria che spendono i loro introiti per i propri godimenti sensuali, mentre io dedico i miei al progresso degli scopi migliori riguardo alla vita presente e alla futura». Dopo la parola ciarlataneria si levò un rumore crescente, metà fatto di mormorie e metà di fischi, mentre quattro persone balzarono in piedi di scatto: Mr. Hawley, Mr. Toller, Mr. Kickley e Mr. Eckbutt. Ma Hawley sbottò istantaneamente e lasciò gli altri dietro di sé, muti. «Se alludete a me, signore, invito voi e chiunque altro a esaminare la mia vita professionale. Quanto a cristiano o non cristiano, io rifiuto il vostro cristianesimo ipocrita e parolaio. E quanto al modo in cui spendo i miei guadagni, non è mia norma mantenere ladri e privare la prole dell'eredità loro dovuta per sostenere la religione e spacciarmi per un santo guastafeste. Io non ostento alcuna austerità di coscienza, non ho trovato ancora alcun sottile metro su cui misurare le vostre azioni, signore. E nuovamente vi invito a darci una spiegazione soddisfacente in merito agli scandali attributivi, oppure a ritirarvi da cariche in cui noi, in ogni caso, vi rifiutiamo come collega. Dico, signore, che ci rifiutiamo di cooperare con un uomo la cui reputazione non è sgombra da luci infami gettate su di essa, non solo dal sentito dire, ma da azioni recenti». «Un momento, Mr. Hawley», disse il presidente, e Mr. Hawley, ancora furioso, si inchinò semi impaziente e si sedette con le mani ficcate in fondo alle tasche. «Mr. Balstrow, non è desiderabile, credo, prolungare l'attuale discussione», disse Mr. Thesiger, volgendosi verso l'uomo pallido e tremante. Devo concordare con quello che è provenuto da Mr. Hawley come espressione di un sentimento generale, al punto di ritenere doveroso per la vostra fede cristiana che vi discolpiate, se possibile, da miserabili calunnie. Io, per parte mia, sarei disposta a concedervene l'opportunità di ascoltarvi. Ma devo dire che il vostro atteggiamento presente è dolorosamente in contrasto con quei principi con cui avete cercato di identificarvi e dell'onorabilità dei quali è mio dovere preoccuparmi. Vi consiglio al momento, in quanto vostro sacerdote, e nella speranza che torniate a guadagnarvi il rispetto, di lasciare questa stanza e di non ostacolare ulteriormente i lavori. Balstrò, dopo un attimo di esitazione, raccolse il proprio cappello dal pavimento e si alzò lentamente. Afferrò l'angolo della sedia, barcollando al punto che Lydgate ebbe la certezza che in lui non ci fosse forza sufficiente per allontanarsi senza appoggiarsi a qualcuno. Cosa poteva fare? Non sopportava di vedere un uomo affondare vicino a sé per mancanza di aiuto. Si alzò e diede il proprio braccio a Balstrow e in questa guisa lo condusse fuori dalla sala. Eppure questo gesto, che avrebbe potuto essere di doverosa gentilezza e di pura compassione, in quel momento gli era indicibilmente sgradito. Gli pareva di apporre la propria firma autografa a quella sua amicizia con Balstrò, di cui ora vedeva in pieno il significato così come doveva essersi presentato alla mente di altri. Ora si sentì convinto che chi si appoggiava tremante al suo braccio gli aveva dato le 1.000 sterline per corromperlo e che in qualche modo le sue direttive per curare Raffles erano state disattese per uno scopo malvagio. Le deduzioni erano collegate in modo abbastanza stretto. La città sapeva del prestito, credeva che avesse lo scopo di corromperlo e credeva che egli l'avesse accettato per farsi corrompere. Il povero Lydgate, con la mente che si dibatteva sotto il terribile potere di questa rivelazione, fu nonostante tutto obbligato a portare Mr. Balstrow alla banca, mandare via un uomo a prendere la sua carrozza e aspettare per accompagnarlo a casa. Frattanto l'assemblea sbrigò il proprio lavoro e ai margini di essa ci fu una discussione animata fra vari gruppi a proposito di questa faccenda di Balstrow e di Lydgate. Mr. Brooke, che in precedenza aveva udito solo accenni incompleti ad essa e che si sentiva assai a disagio per essere andato troppo in là nell'appoggiare Balstrow, ora venne pienamente informato e provò una certa benevola tristezza nel parlare a Mr. Fairbrother della brutta luce sotto la quale Lydgate era giunto a venir giudicato. Mr. Fairbrother aveva intenzione di tornare a piedi a Lowick. «Salite nella mia carrozza», disse Mr. Brooke, «passo a visitare Mrs. Casamo. Doveva tornare dalla Yorkshire ieri sera e farà piacere vedermi. Sapete?» Così andarono via in carrozza, mentre Mr. Brooke, chiacchierando, esprimeva la benevola speranza che in realtà non ci fosse stato nulla di disonesto nel comportamento di Lydgate, un giovanotto che egli aveva giudicato assolutamente al di sopra del comune quando aveva recato una lettera da suo zio, Sir Godwin. Mr. Fairbrother parlò poco, era profondamente afflitto, con un'acuta coscienza della debolezza umana. Non poteva sentirsi certo che sotto l'assillo di bisogni umilianti Lydgate non si fosse abbassato a compiere qualcosa di indegno di lui. Quando la carrozza si fermò al cancello del palazzo, Dorotea era fuori nella spianata ghiaiosa e andò loro incontro a salutarli. «Bene, mia cara», disse Mr. Brooke, «veniamo proprio adesso da una riunione per motivi di igiene, capisci?» «C'era Mr. Lydgate», chiese Dorotea, che appariva piena di salute e di vitalità e stava a capo scoperto sotto i raggi luminosi dell'aprile. «Desidero vederlo e fare un gran consulto con lui a proposito dell'ospedale. Mi sono impegnata con Mr. Balstrow a farlo». «Oh, mia cara», disse Mr. Brooke, «abbiamo avuto delle brutte notizie». «Brutte notizie, sai?» Attraversarono il giardino diretti verso il cancelletto del cimitero, poiché Mr. Fairbrother voleva proseguire verso la canonica, e Dorotea venne a conoscere tutta la infelice storia. Ascoltò con profondo interesse e chiese di riascoltare i fatti e le impressioni riguardanti Lydgate. Dopo una breve pausa, fermatasi al cancello del cimitero e rivolgendosi a Mr. Fairbrother, disse con energia: «Voi non credete che Mr. Lydgate sia colpevole di una qualche bassezza? Io non voglio crederlo. Scopriamo la verità e discolpiamolo».